in primo piano. Buongiorno da Gianfranco Fabi, anche oggi per questa settimana al microfono per leggere e commentare le prime pagine, ma anche qualche pagina interna dei giornali di oggi. Giornali di oggi che hanno, secondo me, due temi, due grandi temi in rilievo e che si alternano questi temi nei titoli di apertura, pur con qualche eccezione. Il primo tema è il viaggio del Papa, il ritorno del Papa a Roma, la conferenza stampa che Papa Francesco ha fatto sull'aereo di ritorno a Roma, una conferenza stampa che i cronisti raccontano con molta tranquillità. Ha parlato un po' di tutto, ma soprattutto si è accentrata l'attenzione del Papa sulla crisi internazionale e il Sole 24 Ore titola: il Papa, stiamo vivendo la terza guerra mondiale combattuta a pezzetti, è lecito fermare l'aggressore ingiusto, e anche il titolo del Messaggero è lecito fermare gli aggressori, colloquio con Papa Bergoglio, c'è una terza guerra mondiale che si combatte batte a pezzetti, deve intervenire l'ONU, non gli USA, sono pronto ad andare in Kurdistan anche subito. E Franca Giansoldati scrive: sono crudeltà intollerabili, l'avanzata degli jihadisti in Iraq va fermata, non dagli Stati Uniti ma dall'ONU, e ancora il Messaggero. Da bordo dell'aereo che lo sta riportando a Roma, Papa Bergoglio, reduce da 4 giorni di fuoco in Corea, si confronta con uno dei più terribili dilemmi morali. Anche le bombe possono essere giustificate per impedire un genocidio? La conferenza con i giornalisti avviene mentre si sorvola lo spazio aereo cinese, e ci sono molti commenti, li vedremo se avremo tempo più avanti, su questo tema appunto di come fermare le aggressioni, come ristabilire la capacità appunto del sistema internazionale di dialogare, di andare avanti verso la pace. Avvenire, il Papa, l'Iraq, lecito fermare l'aggressore, non può decidere una nazione sola, aspetta le Nazioni Unite scegliere le modalità di intervento, disposto ad andare in Kurdistan. Una scuola di verità è l'editoriale di Riccardo Maccioni su Avvenire, sulla parola di Francesco al mondo. Anche il Corriere della Sera: è lecito fermare l'aggressore, Francesco e l'Iraq, la scelta sulla modalità di intervento spetta all'ONU e scherza sulla propria morte, 2-3 anni e via. Il Pontefice: siamo come nella terza guerra mondiale a capitoli. E titolo grande sulla stampa: il Papa sui conflitti mondiali, è una guerra mondiale, la stiamo vivendo a pezzi, Iraq fermare l'aggressore, non bombardare. L'altro tema di oggi, direi rituale in questi giorni, è quello dell'economia, soprattutto di cosa fare per affrontare la crisi e per avviare la ripresa. Il titolo principale di Repubblica è: il piano del governo, prelievo di 1 miliardo dalle super pensioni, allo studio l'ipotesi di colpire gli assegni oltre i 3.500 euro, allarme della Bundesbank, a rischio la ripresa in Europa. Anche il giorno il tema dell'economia in primo piano: tasse, siamo al record, la pressione fiscale al 44% come nel 2012, in 24 anni è salita del 12,6%, pagare a rate, boom di richieste, conti, nessuna trattativa con l'Unione Europea. Questo era il giorno. Il titolo principale del Sole 24 Ore è dedicato ai mercati. I mercati tornano sui bond, buoni del tesoro poliennali e bund ancora ai mini, piazza affari in rialzo dello 0,8%, anche i fondi puntano su Draghi. L'editoriale del Sole 24 Ore di Adriana Cerretelli: la solidarietà imposta dagli interessi. E qui si parla, come si parla anche in altri giornali, anche della fatto che anche la Germania, che è considerata ed è la locomotiva dell'economia europea, è in qualche difficoltà, anzi è sostanzialmente in stagnazione. E il commento di Adriana Cerretelli si apre con una citazione di Piercarlo Padoan: sfortunatamente, e non lo dico come scusa, sulla crescita di quest'anno ci siamo tutti sbagliati, organizzazioni internazionali e governi, ammette Piercarlo Padoan. Oltre che raro, l'agido candore del ministro dell'economia potrebbe apparire anche coraggioso coraggioso se la sua ammissione non seguisse una percezione da troppo tempo diffusa tra chi sprofonda quotidianamente nelle difficoltà dell'economia reale e nello sconforto che genera tra cittadini, imprenditori e professionisti sfiduciati. Sulla corda, non solo in Italia, ma quasi ovunque in giro per l'Europa. Beh, ancora Adriana Cerretelli sul Sole 24 Ore. Anche se non si è ancora dissolta, l'emergenza euro è stata spodestata dall'emergenza crescita che non c'è. Se non si correrà il più presto ai ripari per arginare la seconda, presto o tardi, anche la prima ritroverà vigore, scavando fossati incolmabili tra presi creditori e presi debitori, condannati all'insolvenza se troppo a lungo mantenuti in apnea di sviluppo. Con l'aggravante della deflazione dei prezzi in caduta che complicano l'ordinata gestione degli squilibri dei conti pubblici e per questo alla lunga rischiano anche di vanificare le regole del fiscal compact. Quindi uno scenario certamente complesso, uno scenario complesso in cui appunto Adriana Cerretelli parla di anche del ruolo non solo della Germania ma anche della Francia, che ha aperto un fronte. La Francia è altrettanto in difficoltà rispetto appunto agli altri paesi. E conclude il suo commento: la solidarietà imposta dagli interessi, Adriana Cerretelli sul Sole 24 Ore. La congiuntura economica negativa gioca a favore di un'interpretazione più morbida delle regole e dei piani europei di investimento in grado di invertirla. Però senza riforme strutturali fatte alla mano è molto improbabile che la Germania o la BCE siano disposte a scendere dai rispettivi piedistalli. Pretendono infatti la corresponsabilità di un'eventuale svolta, rifiutano la partita del dare senza la certezza dell'avere, perché sono le due facce della stessa medaglia dello sviluppo. Quindi, e conclude Adriana Cerretelli sul Sole 24 Ore, o tutti i governi se ne convinceranno agendo di conseguenza, oppure l'Eurozona continuerà a trascinarsi nell'anemia da crescita, nell'illusione gli uni di cavarsela comunque, gli altri si di prendersi alcune libertà in ogni caso. Finora però il gioco è solo riuscito a sfiancare l'Europa. E quindi ci sarebbe bisogno di interventi, di misure strutturali, di cambiamenti anche del modello di crescita in Italia. Però sembra che il dibattito sia concentrato ancora sull'aumento delle tasse, perché si parla di prelievo di 1 miliardo sulle superpensioni. È quello che dice appunto il titolo principale di Repubblica, e ci sono anche alcuni commenti che vedremo. Tra l'altro Repubblica ha un'intervista al Presidente della Commissione del Lavoro della Camera, Cesare Damiano, che era stato Ministro del Lavoro in governi passati, e dice appunto: possibile intervento della riforma sulle pensioni d'oro. Quale sarà la soglia? Si chiede Rosaria Amato in questa intervista a Cesare Damiano. Potrebbe essere quella individuata dal governo Letta, 90.000 euro lordi. Questa cifra può essere anche la somma di più pensioni percepite. Superata tale soglia si può intervenire con un prelievo nella parte eccedente, a condizione che le risorse risparmiate vadano a migliorare le pensioni più basse o a risolvere il problema dei cosiddetti esodati. Ecco, qui in questa intervista a Damiano, così come in molti articoli dei giornali, non si dice una cosa che dovrebbe essere detta, cioè che il prelievo di solidarietà esiste già, è già stato approvato, è già in vigore, è già applicato sulle pensioni oltre i 90.000 euro, e lo spiega molto bene il Sole 24 Ore, in cui appunto si afferma: partiamo dal contributo di solidarietà. In realtà un prelievo forzoso sugli assegni più elevati già esiste, è stato introdotto con la legge di stabilità del 2014 dall'esecutivo Letta per le pensioni oltre i 90.000 euro lordi, dopo la bocciatura della Consulta per una misura simile voluta da Giulio Tremonti e Silvio Berlusconi nel 2011 e confermata da Mario Monti. Attualmente infatti, spiega il Sole 24 Ore, chi percepisce tra 14 e 20 volte il trattamento minimo dell'INPS deve rinunciare al 6% dell'importo, che sale al 12% per chi si assesta tra 20 e 30 volte e al 18% per chi supera tale soglia. Ora il governo Renzi potrebbe decidere di rendere l'intervento meno simbolico e più redistributivo, abbassando l'asticella fino a 3.500 euro. Ecco, questo precisa il fatto che il contributo di solidarietà esiste già e non è una cosa da dimenticare. E non lo dimentica per esempio Giorgio Lunghini sul Manifesto, il quale un economista, il quale appunto commentando la situazione e commentando soprattutto questa possibilità di intervento sulle pensioni d'oro, così afferma. Circa il taglio delle pensioni d'oro, giustificato solo da una lamentosa mozione degli affetti con l'invocazione alla solidarietà intergenerazionale, va detto che esso ha la natura di un'imposta di scopo e che dunque nel nostro ordinamento è inammissibile. E va ricordato che la Corte Costituzionale si è già pronunciata giudicando tale prelievo in contrasto con gli articoli 3 e 53 della Costituzione, rispettivamente sul principio di uguaglianza e sul sistema tributario. E continua Giorgio Lunghini sul manifesto, l'intervento riguarda infatti solo i pensionati senza garantire il rispetto dei principi fondamentali di uguaglianza a parità di reddito attraverso una irragionevole limitazione della platea dei soggetti passivi. Quanto alla solidarietà intergenerazionale, come avevano spiegato Keynes e Solow, che non sono i gufi di Matteo Renzi e di Giuseppe Giusti, gufi dottissimi che predicate al vostro simile nulla insegnate, ma due grandi economisti, è molto difficile decidere se sia corretto e ragionevole chiamare la generazione vivente a restringere il suo consumo in modo da stabilire nel corso del tempo uno stato di benessere per le generazioni future e d'altra parte coloro che ritengono prioritario non infliggere povertà al futuro dovrebbero spiegare perché non attribuiscono analoga priorità alla riduzione della povertà oggi. Giorgio Lunghini sul manifesto. Che appunto mette qualche paletto al fatto che si possa continuare a parlare appunto di prelevare soldi sui pensionati e senza tener conto appunto non solo delle regole ma anche degli effetti economici. Molto esplicito è anche l'articolo di Piero Ostellino sul Corriere della Sera, l'ipotesi di tagliare le pensioni più alte è l'editoriale del Corriere della Sera, il contratto tradito, l'ipotesi governativa di toccare le pensioni cosiddette alte per aiutare gli esodati, i lavoratori che in forza di una legge non hanno più un lavoro ma neppure la pensione, ferma l'orologio delle riforme alla redistribuzione della ricchezza, si toglie a qualcuno per dare ad altri, già praticata dai governi precedenti e che ha portato l'economia, scrive Piero Ostellino, nella depressione della crescita zero. La previdenza è una sorta di contratto che il lavoratore stipula con lo Stato in base al quale dietro il pagamento di contributi durante gli anni lavorativi il cittadino riceverà una pensione. L'assistenza è l'aiuto che lo Stato sociale fornisce ai meno abbienti attraverso la fiscalità generale. Il nostro Stato, continua Piero Ostellino, che fa volentieri confusione tra assistenza e previdenza, supplisce alle proprie carenze sociali e finanziarie con la redistribuzione della ricchezza. Questa, che meglio sarebbe definire distruzione della ricchezza, si traduce in una doppia tassazione perché ha già pagato le tasse sui propri guadagni e finisce così col ripagarle in modo surrettizio con la sottrazione da parte dello Stato di una parte ulteriore di questi stessi guadagni. Se dunque lo Stato tradisce o mostra di voler tradire il contratto previdenziale, non c'è più certezza del diritto, il cittadino non è in grado di programmare la propria vita, smette di spendere, gli investimenti si fermano, lo sviluppo si arresta. Così come ha prodotto la fine del socialismo reale, la forziosa redistribuzione della ricchezza minaccia da noi di uccidere l'economia libera. Piero Ostellino sul Corriere della Sera. E molto esplicito è anche Massimo Gravellini nel suo Buongiorno sulla Stampa, funerali di Stato. È abbastanza spiacevole, scrive Gravellini, questa ostinazione degli anziani nel non voler morire. Sono così evidenti i vantaggi che ne trarrebbe il debito pubblico, finalmente sgravato da spese pensionistiche e sanitarie per soddisfazione della BCE, della Troica e del governo delle giovani marmotte. Va riconosciuto che le istituzioni, per una volta efficienti e coese, stanno facendo di tutto per agevolare la complessa ma necessaria operazione. Dopo aver spremuto di tasse le abitazioni che gli anziani avevano comprato nel corso della vita, ora si accingono a prosciugare l'ultima trincea del loro modesto benessere, la pensione. E ancora Massimo Gravellini, con sottile ironia, in questo Buongiorno sulla Stampa, a questo scopo i bonificatori non esitano a servirsi di un arnese antico e indistruttibile, il populismo, per bollare come immorale un assegno di 3.000 euro al mese. Ai puritani del taglio senza anestesia sfugge però che anche merito di quelle risorse tanto esecrate se in Italia non è ancora scoppiato un conflitto sociale. Il pensionato benestante, nuovo bersaglio dell'odio collettivo, è in realtà il banchiere superstite e l'ultimo welfare a cui attingono le generazioni di disoccupati e dei sottopagati cronici. Per dirla più brutalmente, letteralmente: i nipoti campano grazie ai soldi che i nonni sperano di lasciare ai figli. Adesso una parte di quel denaro dovrebbe trasferirsi dalle tasche dei pensionati a quelle bucate del tesoro, con la formula ipocrita del contributo di solidarietà. Forse, conclude Massimo Grabellini, servirà a pagare i funerali di Stato. Ecco, questi commenti alle nuove proposte che di nuovo hanno ben poco fanno il paio poi con il titolo grande di Libero, Il pensionante d'oro, che si riferisce non solo ai pensionati d'oro ma anche a Matteo Renzi. Sia Libero sia Il Fatto Quotidiano mettono in risalto come Renzi vada in vacanza in un hotel da 1600 euro a notte. Il Fatto Quotidiano parla di qualcosa di meno, le vacanze imperiali 1000 euro a notte con i Berlusconi da Dersia diventa la costa dell'inciuccio PD Forza Italia. Il pensionante d'oro, appunto il titolo di Libero. Renzi va in vacanza in hotel a 1600 euro a notte e si prepara a tagliare le pensioni di 3.000 euro. Secondo il Premier, una somma che lui spende in 48 ore per svago, in tasca a chi ha lavorato una vita, è un privilegio. E l'articolo di Franco Becchi si sofferma appunto ad analizzare soprattutto l'albergo in cui Renzi sta passando questi giorni di vacanza. E il vero bersaglio è il fondo di Maurizio Belpietro, sempre su Libero, l'ossessione socialista di bastonare chi ha qualcosa in più. E Belpietro appunto entra nel merito sul fatto della proposta di taglio alle pensioni. Secondo quanto scrive ieri Repubblica, scrive Belpietro, possono rimanere tranquilli solo i pensionati che incassano tra i 1.500 e i 2.000 euro, i quali verrebbero esentati dal prelievo, mentre le mani del governo si concentrerebbero su tutti gli altri. Ora continuare a definire d'oro le pensioni di 2.500 euro netti al mese non è solo sbagliato, perché d'oro non sono, ma dimostra anche una cosa, ossia che ai pensionati d'oro ci sono che i politici con le facce di bronzo, che non avere il coraggio di fare ciò che promettono, continuano a illudere gli italiani con soluzioni facili a portata di mano. Tassare con il pretesto che il suo non è un assegno al minimo, chi la pensione l'ha pagata e sudata, non è né equo né furbo, è solo un provvedimento che ci avvicina sempre più rapidamente a un paese socialista, dove il sogno non era rappresentato dal raggiungimento del benessere ma del malessere per tutti. E conclude Maurizio Belpietro su Libero. Si dice che Renzi somiglia al cavaliere e che anzi ne sia l'erede, ma Berlusconi debuttò in politica promettendo meno tasse per tutti, mentre Renzi di questo passo finirà per aumentarle a tutti. Qui si conclude l'articolo di Maurizio Belpietro sul Libro. Si potrebbe aggiungere che la promessa di Berlusconi di meno tasse per tutti peraltro non è stata poi mantenuta. Chiudiamo questa prima parte citando il titolo del giornale. Qui ci vuole una svolta, e Nicola Porro, vice direttore, che dice: economisti da rottamare, i tecnici come Padoan hanno sbagliato tutte le previsioni, ma Renzi non è riuscito a sloggiarli, pressione fiscale record, gli italiani costretti a pagare le tasse a rate. E conclude Nicola Porro: occorre più fantasia, più coraggio. Berlusconi nel 94 lo ebbe, portò al governo la pattuglia di economisti fuori dagli schemi, importò il principio meno tasse, più gettito, più crescita. Non lo realizzò, ma allora era una novità, oggi una fragetta sdruscita da talk show. Ecco, non si tratta per il paese e incidentalmente per il centrodestra di ritornare al 94, l'economia mondiale è cambiata, si tratta di trovare il coraggio di mettere un bambino senza pregiudizi alla corte dell'economia che dica il re è nudo. Nicola Porro, questo l'editoriale su Il Giornale. Ci fermiamo un attimo per le notizie sul tempo. Eccoci qua ancora da Gianfranco Fabio. In realtà le notizie sul tempo non ci sono, ma ve le do io. A Milano sta piovendo, c'è anche un mezzo temporale, fa anche freddo, nonostante che sia il 19 agosto. Beh, questo è un argomento di cui si parla sempre, il tempo non è più quello di una volta, e anche i giornali ne parlano. Peraltro c'è anche la notizia sui giornali che di fronte alla richiesta di qualche sindaco di prolungare la stagione turistica, ritardando l'apertura delle scuole, ecco, si possa appunto rimediare, sperando che magari in settembre il tempo sia più favorevole, che l'estate duri un po' più a lungo. Ma di fronte a questa proposta il ministro Giannini ha detto no, i tempi devono essere rispettati, il ministro boccia il sindaco almeno per quest'anno, il sindaco peraltro di Forte dei Marmi, abbiamo parlato prima di Forte dei Marmi dove sta facendo le vacanze Matteo Renzi, tutti a scuola a settembre, nessuna deroga per garantire qualche giorno di tinta passerelle in più dopo il meteo disastroso di luglio e agosto. Sono più o meno tutti i giornali che danno questa notizia, ma io mi collegherei con Maurizio Tortorella. Buongiorno Tortorella. Buongiorno Fabi, buongiorno ai tuoi ascoltatori. Vice direttore di Panorama, abbiamo dedicato la prima parte della nostra lettura dei giornali ai temi economici, in particolare su quello che mettono in risalto i giornali dopo l'intervista di Poletti domenica al Corriere della Sera, in cui diceva ma si potrebbe pensare a un prelievo sulle pensioni d'oro. Ora questa polemica è un po' esplosa, anzi non solo polemica, perché sembra che ci sia anche qualcosa di molto concreto. Ecco, nessuno se non il Sole 24 Ore ricorda che il prelievo sulle pensioni d'oro esiste già, e tutti parlano di un'ipotesi come se fosse un'ipotesi appunto che si possa realizzare e soprattutto che potrebbe risolvere i problemi. Allora, sul fronte delle riforme mi sembra che se ci si ferma a prelevare dei soldi dalle pensioni, chiamiamole d'oro, chiamiamole d'argento, chiamiamole di bronzo, oltre i 2.500-3.000 euro, da una parte non si risolvono i problemi, dall'altra si crea molto disagio sociale. Cosa ne pensi, Maurizio Tortorella? Assolutamente, guarda, noi al tema abbiamo dedicato prima della metà di agosto, era due notti fa, una copertina intitolata Il prelievo, nel quale il volto di Renzi era stato trasformato in quello di Dracula, e ovviamente proprio in quel numero raccontavamo come il governo si stesse preparando a ipotizzare un nuovo contributo di solidarietà sulle pensioni, quindi avevamo purtroppo colto nel segno. L'idea di appunto imporre un nuovo contributo di solidarietà in realtà ne esiste già, come ricordavi tu, sulle pensioni più alte, ma in realtà non avrebbe molto senso e aggraverebbe soltanto il disagio di molte categorie, tra l'altro applicandolo soltanto a quelle oltre i 5.000 euro lordi non avrebbe alcun effetto, perché sono circa 130.000-140.000 i soggetti, i pensionati italiani che percepiscono più di quella cifra, quindi poca cosa. Dovrebbe andare a colpire purtroppo le pensioni del ceto medio, nei cui confronti appunto sia il Corriere della Sera sia altri giornali hanno espresso fortissimi dubbi, quindi è sicuramente una manovra assolutamente insensata nei risultati e probabilmente sbagliata, un po' disperata direi. Ecco, ma è interessante che proprio il manifesto, lo citavo prima con un articolo di Giorgio Lunghini, dica appunto che abbassare i salari e tagliare le pensioni non ha prodotto né produrrà la ripresa della nostra disastrata economia. Certo, appunto certo si chiedono altri interventi. Ecco perché, per esempio, si chiede Lunghini, non si parla di, se vogliamo aumentare le tasse, di aumentare le tasse per tutti, rivedere le aliquote dell'IRPEF che sembrano intoccabili. Forse c'è un po' di c'è molta demagogia nelle proposte che si stanno facendo, sembra un po' dei ballon de sé, ecco, però dà l'idea del fatto che fare le vere riforme strutturali, i tagli della spesa pubblica improduttiva, i tagli delle aziende municipalizzate che servono a poco, delle aziende locali che sono solo dei poltronifici per i trombati, come era scritto in qualche articolo, ecco, su questo ci sono enormi resistenze. Tra l'altro lo cita, c'è un articolo di Repubblica che ricorda come nell'84 il governo Craxi di Marcello Sorgi, il decisionismo che venne da lontano. Ecco, il governo Craxi ebbe una ventata decisionista, ma incontrò anche allora delle resistenze molto forti, delle resistenze di lobby, di interessi costituiti che bloccarono anche quelle poche riforme che si volevano fare, anche se allora si fece almeno la revisione della scala mobile. Quindi ci sono in Italia molti privilegi diffusi e molte corporazioni potenti. Ma sì, ma guardavo per esempio un altro dato che è uscito ieri, quello della spesa delle regioni, che è aumentata nel 2013 di 37 miliardi, malgrado tutti i tentativi anche legislativi fatti per esempio da Monti, che aveva cercato di ridurre il numero dei consiglieri, di tagliare la spesa, e la spesa nel 2013 è aumentata del circa 6,5%. Quindi anche lì, voglio dire, si potrebbe intervenire e agire, anzi si dovrebbe intervenire e agire con taglio di spesa improduttiva, la spesa per consulenze che assomma da sola oltre un miliardo, cioè ci sono obiettivamente delle sacche di inefficienza e di spesa assolutamente improduttiva. Cottarelli, come decine di commissari straordinari prima di lui, o di consulenti, o di libri verdi, di ministeri del tesoro, da Tommaso Padoa-Schioppa a chissà quanti, fin dagli anni 80, hanno analizzato nei dettagli più infinitesimali la spesa pubblica italiana e indicato quali potevano essere i tagli da fare. È la politica che non segue i consulenti dei quali si dota, perché non ha coraggio, perché non ha... Infatti, dice Marcello Sorgi che è certamente impossibile un paragone tra Craxi attuale e Renzi, però quello che resta su cui si può fare paragone è che sono passati 30 anni e le resistenze, i problemi che Craxi a suo tempo si trovò ad affrontare e che Renzi si trova ad affrontare sono gli stessi, e quindi le resistenze della burocrazia, le resistenze del governo, le resistenze dell'amministrazione. Ecco, c'è un articolo interessante, come sempre molto vivace, di Giuseppe Turani sul Giorno, che ha una proposta, ovviamente parte da una proposta del tutto improbabile ma interessante, e cita appunto anni fa l'economista Giorgio Foà aveva avanzato una proposta divertente: per fare soldi lo Stato potrebbe percorrere strade inconsuete. Giuseppe Turani sul Giorno, ad esempio, potrebbe vendere titoli nobiliari. Vuoi essere chiamato conte di Gallarate? Versa subito 10.000 euro, poi ci sarà una tassa annuale. Vuoi essere il conte di Poggibonsi? 20.000 euro. Non hai tutti questi soldi? Puoi fare il barone di Tortona? 5.000 euro, e così via. Gli economisti, scrive Giuseppe Turani, che girano intorno a Renzi, sono meno fantasiosi e spiritosi. Pensano di mettere un altro contributo di solidarietà sulle pensioni elevate, non si sa quando. Ha detto lo stesso ministro del lavoro che ci stanno pensando. L'incertezza riguarda l'altezza dove collocare l'asticella della nuova imposta. L'idea, stupidissima, scrive Giuseppe Turani, ha varie controindicazioni. E qui appunto poi enumera queste cose. Ecco, forse qualche punto di fantasia, come chiede, anche se poi senza dare i contenuti, Nicola Porr sul Giornale, rottamiamo gli attuali economisti, troviamo qualcuno che ci dia qualche ricetta nuova, forse ci vorrebbe Maurizio Tortorella, vice direttore di Panorama. Sì, voglio dire, dalla vendita dei titoli nobiliari a idee più concrete, che forse più fruttifere, si può obiettivamente correre su un lungo orizzonte di ipotesi. Più banalmente, voglio dire, la vendita degli immobili dello Stato è una cosa di cui si parla per esempio da decine d'anni, è un calcolo, per carità, adesso il mercato sicuramente non è nei suoi momenti migliori anche per procedere a vendite di quel settore, però è da decenni che se ne parla. Le imprese pubbliche infruttifere e stracariche di dipendenti, anche quelle sono un onere che costa decine di miliardi allo Stato e agli enti locali, e anche lì si potrebbe agire abbastanza agevolmente. Insomma, di tagli, di possibilità ce ne sono a bizzeffe, ripeto, è questione politica, non tecnica. Credo che ogni governo abbia, negli ultimi 20 anni almeno, abbia fatto studi e calcoli di questo tipo, e che poi manca la volontà politica, ed è questo il vero dramma di questo paese, che non c'è governo veramente, un po' per insipienza, un po' per paura di andare a colpire interessi consolidati, un po' per demagogia e un po' anche perché mancano probabilmente i poteri che altrove i governi hanno, che sono molto più concreti. Mancano i poteri e ci sono molte resistenze. Grazie a Maurizio Tortorella di essere stato con noi questa mattina, e riprendiamo. Io vorrei concludere questa seconda parte appunto leggendo anche la conclusione del pezzo che ho citato di Giuseppe Turani, che si apriva con questo divertente esempio, questa divertente proposta di Giorgio Foà di raccogliere soldi vendendo titoli nobiliari che peraltro la Costituzione delle sue disposizioni transitorie ha abolito quasi praticamente, se non per il loro carattere onorifico. E Giuseppe Turani dice che le strade per risolvere il problema della finanza pubblica sono solo due: o si fa un taglio violento nella spesa pubblica, oppure si informa Bruxelles che non rispetteremo gli impegni europei con relativa figuraccia internazionale, e il semestre italiano di presidenza della UE l'insegna di razzi e frizzi diretti al nostro paese. Allora non resta che la fuga nell'iperspazio, si chiede Turani. No, c'è una terza strada, l'accordo programmatico con Bruxelles. Si va dai vertici della UE e si concorda di sforare per qualche anno. In cambio, però, si presenta un piano dettagliato di rientro con ben indicati i tagli di spesa pubblica, la riforma del lavoro, della giustizia, il tutto monitorato giorno per giorno. Non è come essere amministrati dalla Troica, ma quasi, e non sarà facile ottenere questo trattamento. La Germania, continua Giuseppe Turani, è sempre diffidente. Sono anni che si parla di tagli alla spesa pubblica, ma finora nessuno ha visto niente di significativo. I 30.000 boscaioli siciliani sono ancora lì a percepire i loro inutili stipendi. Le 10.000 società partecipate dagli enti locali sono sempre al loro posto. Alcune non fanno proprio nulla, perché non era previsto che facessero qualcosa. Servono solo a distribuire stipendi a qualche trombato della politica. Infilare le mani nella spesa pubblica italiana è come metterle nella bocca del leone. Infatti, finora nessuno ci ha provato, ma adesso Renzi dovrà decidersi. O lo fa lui, o glielo fa fare Bruxelles. La stagione dei giochi, delle slides in TV e dei proclami è finita. Adesso, se non si tirano fuori le forbici, la recessione va avanti e la nostra sovranità emigra a Bruxelles. Mi sembra abbastanza chiaro un tema appunto affrontato con chiarezza. Bisogna che queste riforme vere si facciano, non le riforme di facciata, non le riforme che comportano nuove tasse, ma che allevino le tasse, che aiutino questo paese a avviare una crescita che deve partire dai consumi, deve partire dal fatto di ridare la fiducia alla popolazione e soprattutto alle imprese. In questo senso si parlava anche di riforme della giustizia e sottolineo che peraltro il titolo grande del secolo XIX è Freno al processo d'appello, secondo grado in pochi casi, alta la prescrizione ammazza sentenze. Le anticipazioni sulla riforma della giustizia che sarà presentata dal ministro Orlando il 29 di questo mese. Anche il Corriere della Sera ha un titolo: giustizia civile, via libera di Napolitano, restano i nodi sulla parte penale, soprattutto sulle intercettazioni. Il ministro Orlando dal presidente, le novità, processi rapidi, niente più arretrati, divorzio senza magistrati. Quindi qualcosa sul fronte della giustizia si sta facendo, scrive il secolo XIX, ora tocca al processo penale le sue maggiori criticità, l'eccessivo numero di appelli e la mannaia della prescrizione, che applicata come oggi è la più facile scappatoia contro una condanna che per chi si può permettere fiori da avvocati. Il tempo corre, il 29 di agosto la riforma della giustizia approderà al Consiglio dei Ministri per il varo definitivo e la Margherita con 12 petroli con cui il Ministero ha tradotto graficamente gli altrettanti punti di intervento si sta riempiendo di contenuti. Se sono pronte le notizie sul traffico lascerei lo spazio alle informazioni stradali e poi concluderemo le nostro giro d'orizzonti sui giornali. In primo piano. Eccoci per l'ultima parte del nostro giro d'orizzonte sui quotidiani di oggi. Avevo citato in apertura come tutti i giornali adesso hanno in evidenza il ritorno del Papa dal viaggio in Corea e soprattutto il colloquio, più che conferenza stampa si può parlare di colloquio che il Papa ha avuto con i giornalisti nell'aereo che lo riportava a Roma. Stiamo vivendo la terza guerra mondiale combattuta a pezzetti, è uno dei temi, ed è lecito fermare gli aggressori, è l'altro tema in fondo su cui i giornali puntano nel commentare appunto queste parole del Papa. E leggiamo alcuni commenti su questo fronte, alcune sottolineature dell'intervento del Papa che è in pratica anche una svolta politica in fondo sulla posizione del Vaticano, sulla posizione della Chiesa e sul richiamo poi anche ai cattolici sul loro impegno nel mondo. Vittorio Emanuele Parsi sul Sole 24 Ore: forse il Papa voleva lanciare una provocazione parlando di terza guerra mondiale per risvegliare una comunità internazionale che pare a dir poco eccessivamente prudente nel reagire a quanto sta avvenendo in Medio Oriente, ma la provocazione ha in sé un elemento di riflessione che non può sfuggire a nessuno. Il titolo di questo articolo di Vittorio Emanuele Parsi è Svegliata la coscienza del mondo distratto. E l'ordine sorto dalle guerre mondiali europee europee, scrive Vittorio Emanuele Parsi, sembra essere decisamente arrivato al capolinea con la fine della sua ultima fase, quel post-guerra fredda che rappresentava comunque lo stato conclusivo dell'ordine eurocentrico, lo stesso che per almeno 300 anni aveva regolato il sistema internazionale. E poi Vittorio Emanuele Parsi passa in rassegna appunto le difficoltà attuali, soprattutto le difficoltà che hanno le Nazioni Unite, che lo stesso pontefice peraltro invoca, le difficoltà che Nazioni Unite appunto che risentono ancora del fatto di essere nate dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, per esempio parla di anacronismo dei due seggi permanenti del Consiglio di Sicurezza attribuiti a Francia e Gran Bretagna, quando l'una e l'altra sono ormai parte di quel nuovo soggetto politico chiamato Unione Europea. Ma nella conclusione Parsi appunto si sofferma nel giudicare appunto la possibilità e la necessità e anche la liceità dell'uso della forza. Si tratta di una terra di conquista travestita alla difesa dei deboli? Tutto può essere, ma senza queste bombe, questi aerei, ovviamente Parsi si riferisce all'intervento americano contro il califfato per difendere i cattolici, per difendere anche i sciiti che sono minacciati dall'integralismo islamico. Ecco, si tratta di una guerra di conquista, ma la conquista senza questi aerei e queste bombe la realizzerebbero gli islamisti dell'ISIS. Occorre ricordare, conclude Vittorio Emanuele Parsi, che senza la forza il diritto è nudo e che la legge disarmata è un lusso che nessuna comunità, neppure quella internazionale, può permettersi. Meno male che gli americani possono decidere di bombardare i criminali di al-Baghdadi senza dover riunire le commissioni di difesa esteri di Camera e Senato, se basterà. Quello che ci stiamo assistendo in Siria e Iraq ci ricorda una semplice tremenda verità, che se non tutti i problemi possono essere risolti con l'uso della forza, esistono emergenze che non possono essere affrontate senza ricorrere alla forza. È il fatto che gli stessi vescovi cattolici iracheni abbiano chiesto l'uso della forza in sostegno dei loro fedeli è qualcosa che non può essere dimenticato. Un'ultima riflessione, conclude Vittorio Emanuele Parsi, non c'è dubbio che la politica e l'economia mondiale possono lasciare ampiamente insoddisfatti tutti coloro che guardano a questo mondo con un sento di simpatia per il genere umano, ma le alternative efficaci e plausibili scarseggiano. Il realismo, in pratica, è il quanto afferma Vittorio Emanuele Parsi, deve portare anche, come dice il Papa, a cercare di fermare ad ogni costo le aggressioni, di fermare ad ogni costo quello che potrebbe diventare un genocidio. Alberto Belloni sul Corriere della Sera appunto sottolinea come il Papa si schieri contro le ipocrisie della politica. Per una politica che è contro una politica che Francesco non piace, scrive Alberto Belloni, fatta di astuzie che ieri in aereo il Papa ha deriso, ricordando con quali e quanti pretesti la politica che è prepotenza si polesa. La chiave di lettura di questo linguaggio l'aveva fornita lui stesso poche ore prima parlando di Cina. Aveva distinto il dialogo politico, in termini dove si misurano le forze, da quello fraterno e umano, dove si misurano le sincerità. E a partire da questa intensità umana ha spiegato l'orizzonte di una guerra mimetizzata nella frammentazione. Il Papa, scrive ancora Alberto Belloni sul Corriere della Sera, ha messo il dito nel disastro apocalittico dell'Iraq, un mondo devastato dall'insipienza di chi ha aperto la guerra fra sunniti e sciiti, di cui Francesco vede tutte le vittime sullo stesso piano, rifiutando la logica dei cristiani perseguitati per prendere quella apocalittica dei bambini uccisi. Fermare l'aggressore, la formula usata da Wojtyla per l'assedio di Sarajevo, è l'obiettivo che ha indicato e che si dà ogni coscienza che senta il grido del povero, anche in modo meno trafiggente di quanto lo sentono le orecchie di Dio. Ma Francesco non si è lasciato trascinare ad avallare i bombardamenti o da chi vuol farlo recedere dalla proposizione guerra chiama guerra. Ha rinviato all'ONU, dove la Siria e la Russia diranno l'avevamo detto, o dove forse lo dirà anche lui, approfondendo teologicamente la questione dei bambini uccisi. Non si è soffermato sugli altri quadranti di crisi oggi più brucianti come l'Ucraina, non ha nemmeno voluto fare distinzioni come fanno quelli che imputano alcuni morti alla guerra ed altri a chi la fa. Ha lanciato un sasso nello stagno. Adesso starà alla politica, scrive ancora Alberto Belloni sul Corriere della Sera, mostrarsi all'altezza di questa visione delle cose. Non è cambiato il mondo dopo questa intervista. Chi dorme in un tugurio, chi piange un genitore o un figlio, non sente la differenza, schiacciato com'è dal mistero di iniquità. Ma sapere che la fede cristiana può offrire quella lettura d'insieme senza la quale siamo in balia dell'emozione di un momento è una sfida è uno schiaffo a chi caccia la gente dalle case ai tugui, a chi uccide i bambini alle mamme e le mamme ai bambini, a chi non capisce che un'amicizia rinviata diventa sempre inimicizia. Ecco, Alberto Melloni dal Corriere della Sera, un invito in fondo a non distinguere, distinguere il piano politico dal piano umano, dal piano religioso, dell'unità in fondo della persona che deve appunto essere salvaguardata in ogni caso, in ogni luogo, in ogni momento. Di svolta diplomatica di Francesco parla invece Franco Garelli sul Messaggero. Mai un pontefice si era spento tanto in là nel riconoscimento della liceità di un intervento internazionale di carattere in qualche modo militare per contrastare i crimini contro l'umanità. Molti predecessori di Papa Francesco hanno certamente riflettuto su situazioni analoghe, ma per lo più hanno espresso posizioni più caute al riguardo, oltre ad aver operato a vari livelli diplomatici e internazionali per prevenire, comporre e ridurre i conflitti. Si tratta di una strada certamente percorsa anche dall'attuale pontefice, che nel caso in questione ha persino inviato un suo rappresentante a Baghdad, nella zona del conflitto, per testimoniare l'impegno della Chiesa Cattolica nella difesa delle minoranze religiose, dei cristiani in particolare. Ma, scrive Franco Garelli sul Messaggero, oltre alla leva diplomatica, il Papa attuale, secondo il suo stile, si espone in prima persona sulle triste vicende che discriminano la presenza dei cristiani e altre minoranze religiose ed etniche in varie parti del mondo. Francesco, infatti, nel suo viaggio in Estremo Oriente ha più volte ricordato di aver preso in esame l'ipotesi di fare tappa ad Erbil, in pieno territorio curdo, per offrire il segnale forte di una presenza che può sì esporlo a grandi rischi, ma che può anche innescare la ricerca di nuovi equilibri. E la voglia di andare al centro dei conflitti è stata subito ribadita dal pontefice di ritorno a Roma, anche se i suoi collaboratori fanno di tutto per dissuaderlo. Ecco dunque, conclude Franco Garelli sul Messaggero, ancora una volta il Papa che non ti aspetti. Da un lato predica la pace in modo incondizionato, che a qualche diplomatico esperto in questioni internazionali può anche apparire ingenuo, visto che gli odi antichi e le storiche contese territoriali, vedi la Palestina, non si risolvono con le dichiarazioni di buone intenzioni o soltanto con la preghiera condivisa tra esponenti delle controparti nei giardini del Vaticano, ma che dall'altro non esita a rendere pubblica la sua posizione su un'azione militare, intesa come male minore, sotto la guida dell'ONU per prevenire e difendere i popoli più deboli e i loro diritti, e che ancora si dichiara propenso a giocare in tema di conflitti etici internazionali un ruolo in prima persona, a testimonianza di una fede e di una idea di giustizia fortemente intrecciata con le vicende umane. Era Franco Garelli sul Messaggero. Un altro commento è quello di Andrea Tornielli sulla Stampa. Non deve sfuggire dalle parole del Papa, conclude Andrea Tornielli della Stampa, questa sottolineatura: essere oggetto di violenze sono diverse minoranze religiose, non solo quella cristiana. Certo, i seguaci di Gesù rischiano di scomparire in quei luoghi, sono presenti ormai da 2000 anni, ma non si deve dimenticare che l'ISIS ha ucciso anche musulmani sciiti, oltre che perseguitato altri gruppi religiosi come gli yazidi. Presentare ciò che sta accadendo come la resa dei conti tra cristianesimo e islam, invocando nuove crociate, è una semplice che finisce per strumentalizzare ideologicamente persino il martirio, e che rischia di complicare ancora di più la situazione che vorrebbe risolvere, identificando l'Occidente, quei cristiani da 20 secoli cittadini del Medio Oriente. Quindi sottolinea appunto Andrea Tornielli, il tema è quello della persona e del rispetto di tutte le fedi religiose, che il Papa ha sottolineato più volte anche in questo viaggio in Corea. Vorrei concludere questa parte dedicata al Papa, a cui appunto i giornali dedicano ampio spazio, come giustamente merita, citando l'articolo di Enzo Bianchi, priore della comunità di Bose, su La Repubblica. E conclude Enzo Bianchi la sua riflessione sul viaggio del Papa e sugli appelli di Papa Francesco sulla necessità per i cristiani di riprendere la loro identità di fondo e i loro valori di fondo. Ritorna e si dilata quell'invito scandito con forza dalla loggia di San Pietro la sera dell'elezione di Papa Francesco: camminiamo insieme, vescovo e popolo, vescovo e popolo. Dalla Corea anche l'altro viene associato al cammino comune del vescovo di Roma e del popolo cristiano di cui è pastore. Nei percorsi di umanizzazione, la lunga e sovente contraddetta strada verso la pace pace e la giustizia va compiuta insieme, convertendosi da un passato di guerra e di divisione, chiedendo perdono, ricercando solidarietà, ravvivando la memoria del passato per ricominciare in una dimensione rinnovata. E ancora Enzo Bianchi, è il passato doloroso, lo si riscatta non rimuovendolo, ma rivisitandolo nella richiesta di perdono e nella compassione. Così, se a Caserta Papa Francesco aveva chiesto perdono ai pentecostali italiani per il silenzio della Chiesa di fronte alle inique disposizioni discriminatorie del regime fascista, vicenda che molti avrebbero considerato marginale e trascurabile, a Seul il Papa ha voluto abbracciare e mostrare tutta la sua solidarietà verso uno sparuto gruppo di donne novantenni, doppiamente vittime della guerra. Nessun essere umano è un effetto collaterale di sciagure più grandi. Ciascuno ha, scrive Enzo Bianchi, ciascuno ha un valore inestimabile non solo agli occhi di Dio, ma anche per il cuore misericordioso di ogni discepolo di Cristo. Sì, Papa Francesco ha mostrato di essere al cuore della Chiesa, non tanto perché a capo del centro nevralgico di potere, ma perché il suo cuore di uomo, di cristiano e di vescovo, pulsa per diffondere la vita ricca di senso e di speranza che sgorga dal Vangelo di Gesù Cristo. Quindi la testimonianza, appunto, del Papa a tutte le persone perché recuperano la loro umanità e affrontino con questo anche i temi più gravi, più drammatici di questo mondo, temi più gravi e più drammatici che sono sulle pagine dei giornali, ma che devono essere anche nella nostra coscienza. Se vi fermo qui, l'appuntamento è per domani.